Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Oggi iniziamo con notizie un po' strane la nostra puntata. Benvenuti e benvenute a Medius, e allora ascoltiamo i titoli insieme. Automobili volanti e laser per le zanzare. Ogni tanto la scienza produce cose strane e paradossali. E vi parleremo anche del primo pipistrello astronauta. Pesa 5 kg anziché 12 e sta nella cappelliera di un aereo. È una sedia a rotelle realizzata in acciaio nanotecnologico. Saponette e frigoriferi hanno salvato più vite della penicillina e sono un esempio di quelle che Piero Bianucci, nel suo libro, chiama servitori e macchine invisibili. A Ecopolis, appuntamento dedicato alle tematiche ambientali nelle metropoli, si discute di come proteggere il patrimonio culturale dall'inquinamento. Perché gli scienziati non sono pericolosi? È il titolo di un saggio appena pubblicato e l'autore, Gilberto Corbellini, ci spiega perché questo timore è del tutto ingiustificato. Farà discutere la proposta dell'Enea di realizzare a Milano la prima vertical farm, ovvero fattoria verticale, del mondo. Dalla scienza a volte arrivano notizie strane, e di notizie strane sto per parlare con Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao, buonasera. Paola Rebusco dagli Stati Uniti, questa volta da San Francisco. Ti raggiungo sempre via Skype, sei sempre un po' volante. E a proposito di volante, mi pare che la prima notizia di cui ci parlerai è macchine volanti, automobili volanti. Ebbene sì, una macchina volante o aereo stradante, che dir si voglia, è un prototipo che è stato creato da degli studenti di dottorato qui del MIT, e praticamente è un aeretto due posti che si trasforma in automobile con un pulsante. Si spiegano le ali e si richiudono. Abbiamo l'immagine visibile sul nostro sito, effettivamente quando le ali sono chiuse è un po' strano, ma sembra proprio un'automobile. Questo è un prototipo funzionante? Sì, è un prototipo funzionante, devono ancora finire alcuni test, però pare che funzioni tutto secondo le regole. La cosa interessante è che ha un motore di aeroplano, ma consuma normale benzina per automobili, e ci sta in un garage. Le dimensioni sì, sono certamente ridotte, speriamo anche per quanto riguarda i consumi. Oddio, di solito i primi prezzi di questo genere di innovazioni non sono molto abbordabili. Il costo attuale è il costo di una Lamborghini. Pensano di entrare in commercio l'anno prossimo. Abbassando i costi. Sì, penso all'inizio non di molto. Senti, ma che funzioni potrebbe avere? In Italia non lo vedo molto, ma probabilmente in un paese come gli Stati Uniti, dove ci sono veramente tanti piccoli aeroporti, in che modo potrebbe essere utilizzato? Beh, l'idea di utilizzarlo in alcune zone in cui è difficile magari avere un trasporto via terra, e quindi offre il vantaggio di poter arrivare con un aereo e poi muoversi direttamente con lo stesso mezzo anche sul terreno. Anche poi in caso di maltempo, il vantaggio è che il pilota può atterrare in qualsiasi aeroporto autorizzato e proseguire il viaggio via terra. Quindi c'è anche una questione di sicurezza. L'altra notizia che mi hai preannunciato è il laser uccidi zanzare, che sembrerebbe veramente uno spreco tecnologico micidiale. Come funziona questa cosa? Beh, funziona. Praticamente l'hanno costruito con dei pezzi comprati su eBay. C'è semplicemente un computer, 5 flash, la lente di una macchina fotografica e un laser. E in questo esperimento hanno messo le zanzare in un contenitore. Il flash illumina il contenitore con le zanzare. E ogni zanzara ha una sua ombra particolare che viene impressa in un materiale riflettente. La lente raccoglie l'informazione, la passa al computer che la processa e pam, il laser spara e colpisce tra l'altro solo le zanzare femmine. Come fa a distinguerle? Le distingue perché le zanzare femmine sbattono le ali ad un ritmo diverso rispetto ai maschi. Quindi il sistema riesce a rivelare questa differenza di battito? Esattamente. L'idea originale era di un astrofisico, Lowell Wood, che lavorava con Edward Teller, il padre della bombacca. Ecco, forse sarà bene ricordare che Edward Teller era anche quello scienziato che aveva ispirato il dottor Stranamore di Kubrick, cioè uno scienziato molto, molto abile, ma anche ritenuto un po' pazzo. Teller era anche quello che pensava di usare i laser per creare uno scudo di protezione degli Stati Uniti dalle armi nucleari sovietiche. Ai tempi di Ronald Reagan, no? Un progetto noto come Star Wars. Ecco, ma scusa, perché progettare una cosa di questo genere? Dove potrebbe essere utilizzata? La malaria uccide 1 milione di persone all'anno. Com'è possibile in un ambiente esterno naturale applicarlo? Oppure forse si potrebbe pensare a qualcosa che agisce nelle abitazioni? Dunque, è ancora un prototipo. Penso che sarà un utilizzo soprattutto nelle abitazioni, ma prima di vederlo in commercio passerà parecchio tempo. Beh, comunque Paola, sembra una roba un po' folle, eh? Eh sì, ma bisogna tener conto che è un primo esperimento. Hanno dimostrato che funziona con delle zanzare in un contenitore, è un primo passo. Senti Paola, ma in conclusione mi dicevi anche di un pipistrello che è andato in orbita praticamente. Esattamente, il primo astro pipistrello. È rimasto attaccato allo shuttle Discovery che è stato lanciato il 17 marzo. In realtà si sono accorti che c'era questo piccolo pipistrello attaccato alla tanica di carburante dello shuttle. Ricordiamolo che è un tubo alto 50-60 metri, quindi non è un oggettino piccolo. Era attaccato alla parete? Sì, era attaccato lì, però aveva un'aletta rotta e aveva anche dei problemi con la spalla o il polso, sono riusciti a capire. Vabbè Paola, diciamocelo, non hanno rimandato il lancio per togliere il pipistrello, però non è che avrà fatto molta strada. Dunque, hanno controllato che durante il lancio la temperatura in quella zona era di 20 gradi centigradi, per cui è sopravvissuto al lancio. Quanto può essere rimasto lì in quel posto? Qualche migliaio di metri. Bisogna che perfezionino la loro preparazione, direi. Ciao Paola. Ciao, buona serata. La scienza dei materiali sta già rivoluzionando molti oggetti grandi e piccoli che usiamo nella nostra quotidianità, ma siamo solo all'inizio, vedremo molte più applicazioni nel prossimo futuro. Una delle direzioni più interessanti delle ricerche in scienza dei materiali è quella che riguarda le soluzioni per i disabili. Ascoltiamo Maurizio Menis. Una carrozzina pieghevole per disabili che ripiegata sta nella cappelliera di un aereo più o meno e pesa 5 kg anziché 12. L'idea è nata da un italo-australiano, Lou Papi, e sta circolando. Insomma, la carrozzina è tutta votata alla leggerezza, ha anche parti in fibra di carbonio, ma il dato di maggiore novità è il telaio, che è composto con un materiale meno noto, il Nanoflex. Un nuovo materiale, diciamo, che nasce nell'alveo delle nanotecnologie e che è stato sviluppato, già a metà però degli anni 90, da un'azienda svedese, la Sandvik Material Technology, e che sta cominciando a diffondersi solo adesso. Ne parliamo con Giuseppe Sala, che è il tecnico responsabile appunto del Nanoflex. Buonasera Sala. Buonasera, buonasera dottore. Dunque, intanto ci dica che cos'è il Nanoflex? Il Nanoflex è un acciaio inossidabile che è nato dalla ricerca della Sandvik e che consente di ottenere una resistenza meccanica fino a 4 volte quella dei normali acciai inossidabili. E in aggiunta alla inossidabilità, appunto, consente di poter riprogettare in modo molto efficace componenti della vita nostra di tutti i giorni. L'esempio che lei ha citato è uno dei più interessanti. Ecco, ce ne sono altri. Ah sì, sto pensando ad esempio a una certa tipologia di rasoi elettrici che sono fatti con la testina e l'elemento, come dire, rotante in Nanoflex già da alcuni anni. Dunque intanto spieghiamo che appunto è un acciaio inossidabile che però è caratterizzato da un processo particolare, ce lo spiega in modo molto semplice. Sì, questo materiale viene prodotto in uno stato come dire, relativamente morbido. Questa condizione permette di poter eseguire molte lavorazioni meccaniche di formatura, di piegatura, foratura e quant'altro, e quando ha raggiunto la sua configurazione finale, attraverso un riscaldamento molto semplice, molto breve, in un certo range di temperatura, il materiale raggiunge il suo stato finale che lo porta ad arrivare a valori di resistenza più elevati. Ecco, ma che cosa accade dentro il materiale? Questa è la ragione per cui si parla in qualche modo di nanotecnologia. Certo, capita che la struttura che in origine era morbida viene indurita da una fase costituita da particelle finissime che sono appunto nell'ordine di idee delle nanotecnologie, che induriscono sensibilmente la struttura meccanica del prodotto. Quindi c'è un fenomeno di precipitazione. C'è una precipitazione all'interno di una matrice duttile soffice di nanoparticelle che vanno a rinforzare la struttura complessiva di questo materiale. Abbiamo detto che arriviamo a 4 volte più o meno la resistenza. Arriviamo, direi, su prodotti normali fino a 2000 megapascal, che sono 4 volte circa la resistenza di un comune acciaio inossidabile. Ecco, un altro elemento che mi sembra anche interessante rispetto a quelle che sono le procedure che si riscontrano normalmente nell'industria metallurgica è che questo parametro, la resistenza del materiale, che però ha delle implicazioni mentre lo si lavora, in realtà è un parametro controllabile, e questo è un altro elemento di vantaggio. Certo, infatti questo è l'aspetto più interessante, perché a differenza degli acciai normali che offrono certe caratteristiche garantite sulle quali poi il progettista si basa per disegnare, per quindi progettare i suoi componenti, in questo caso si parte dal componente finito, si stabilisce quale deve essere ad esempio il peso, la forma, la resistenza di un materiale, dopodiché lo si produce. E quindi è un processo veramente capovolto rispetto ai normali prodotti. Va bene, grazie Sala, allora, buon lavoro. Sentirci, grazie a lei. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Specchiarsi, questo è il tema del gioco di oggi, siete pronti? Siamo al quiz. Dunque, avrete certamente presente quella curiosa situazione che si viene a creare quando ci sono due specchi, uno di fronte all'altro. Vi mettete in mezzo e vedete una moltiplicazione di tante immagini da una parte e dall'altra. Immaginiamo degli specchi un po' grandi. La domanda: c'è un modo perché possiate vedere questa moltiplicazione all'infinito? Tre risposte, come sempre. La prima: non può essere infinita questa moltiplicazione, perché i due specchi, per quanto ci si possa impegnare, non saranno mai perfettamente paralleli. Basterà una piccolissima variazione nell'angolo fra i due e ad un certo punto la vostra immagine scompare dalla riflessione. Infatti, tipicamente si vede una successione di riflessioni che progressivamente escono dalla cornice superiore o inferiore dello specchio. Ci scriverete angolo. Seconda risposta: non può essere infinita perché l'energia luminosa decade, diminuisce un po' ad ogni riflessione. Ci scriverete energia. Terza e ultima possibilità: non potete vedere questa moltiplicazione dell'immagine all'infinito per il semplice motivo che ad ogni riflessione l'immagine diventa un po' più piccola e ad un certo punto diventa più piccola della vostra testa. E quindi come potreste vederla? Ci scriverete testa. Dove? Al solito numero di SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Perché gli scienziati non sono pericolosi? Scienza, etica e politica. L'autore è Gilberto Corbellini, le edizioni sono Longanesi, e con Gilberto Corbellini parleremo fra poco. In collaborazione con IBS.it. Invece ora incontriamo un altro autore, Piero Bianucci, che ha scritto un libro molto curioso. E questo libro vi parla di macchine nascoste che però sono lì intorno a noi e hanno rivoluzionato la nostra quotidianità. Chiara Albicocco ora vi accompagna in una casa per svelarvi queste macchine. Questa sera Mebius vi fa visitare la vostra casa, monolocale o attico che sia, in maniera sorprendente, nel senso che sarete assolutamente sorpresi di scoprire che siamo circondati da invisibili schiavi, e poi ve lo spiegheremo, a nostra disposizione, che ci rendono la vita veramente comoda. Ecco, noi magari non ci facciamo caso nella vita di tutti i giorni, ma pensate di rientrare a casa, stanchi, dopo una giornata di lavoro pesante, e anziché pigiare l'interruttore della luce, dovete accendere un fuoco. E non con l'accendino, tenerlo acceso, alimentarlo e trasportarlo dalla cucina alla camera, al bagno e così via. Impensabile, o meglio, io non ci voglio pensare. E se vi dico ancora, il frigorifero ha salvato più vite della penicillina. non è una frase mia, ma di Piero Bianucci, un illustre collega, giornalista scientifico, presidente del Planetario di Torino e anche Pianeta. Buonasera Bianucci. Buonasera, ecco, grazie dico, per il pianeta. Ecco, infatti dico pianeta non per offenderla, ma perché veramente le hanno dedicato un pianeta, un pianetino diciamo. Sì, sì, non esageriamo, un piccolo pianeta di 15 km di diametro che si trova tra Marte e Giove, ma ce ne sono decine di migliaia. In più bisogna aggiungere che io non ho nessun merito, perché questo pianetino è stato scoperto da un astronomo che si chiama Walter Ferreri e gentilmente me lo ha fatto dedicare dall'Unione Astronomica Internazionale. Ecco, va bene. Allora, lei è qui con noi stasera, dicevo, per farci fare un giro un po' insolito tra le nostre quattro mura domestiche e, come dice lei, nella tana perfetta. Lei lo dice nel suo nuovo libro che si chiama Le macchine invisibili, edito da Longanesi. Bianucci, da che stanza partiamo? Io mi sono un po' divertita a leggere la parte finale, diciamo la camera da letto, ma vorrei che la tenessimo per ultima, se lei è d'accordo. Sì, sono d'accordo. Qualunque stanza è piena di curiosità. Innanzitutto, in ogni stanza noi troviamo delle prese elettriche. Queste danno alla nostra casa una potenza di 3 kW e mezzo. Se noi dovessimo avere a disposizione una potenza di questo genere con la forza muscolare umana, beh, ci servirebbero 50 schiavi, che credo nessuno di noi vorrebbe, innanzitutto perché non vogliamo schiavi, ma poi anche perché non ce li potremmo permettere. Invece, nonostante la bolletta sia qualche volta un po' salata, dobbiamo riconoscere che ci dà un servizio incredibile. Sono quegli schiavi elettrici, questi 50 schiavi elettrici che fanno funzionare il frigorifero, la televisione, il rasoio elettrico, l'aspirapolvere, tutto quello che c'è in casa, compresa l'illuminazione e compreso anche tutto quel complicato percorso che prima si accennava per dover portare la luce da una stanza, sì, all'altra. Ecco, infatti non voglio neanche pensarci. E se adesso ci spostiamo in cucina, come lo definisce lei il laboratorio del caldo e freddo? A parte insomma gli elettrodomestici classici, la lavastoviglie, il frigorifero, quali sono questi macchine invisibili che si nascondono tra i fornelli e le pentole? Il percorso che io cerco di fare nel libro è proprio questo, di andare a vedere le macchine invisibili, nel senso che magari sono dentro altre macchine. Allora, vabbè, in cucina, per esempio, molti di noi hanno forno a microonde e la benedizione di Singer, perché possiamo arrivare a casa e in pochissimi minuti scaldare un piatto già pronto. Però noi non avremmo quel forno a microonde se qualcuno non avesse inventato prima il radar, e prima ancora del radar quel diodo che si usa dentro il radar, in sostanza una valvola per capirci, sì, una valvola che si chiama magnetron e che produce appunto quelle onde di una lunghezza intorno ai 20 centimetri che sono quelle che, facendo oscillare le molecole di acqua dentro il cibo, lo riscaldano. Quindi già il forno a microonde è una macchina per noi invisibile che usiamo come una scatola nera senza sapere che cosa c'è dentro. Ma poi mi viene in mente, anche sempre pensando alla fretta dei tempi moderni, la pentola a pressione, che sembra un oggetto banale, però risale alla pentola di Papin. Papin nel Settecento inventò questa pentola per cuocere le ossa. Ah. Molti diranno, ma le ossa, possibile? Sì, erano tempi molto grandi, tempi molto poveri, nei quali si cercava di sfruttare completamente l'animale macellato, e anche le ossa. I poveri, i poverini, davvero avevano soltanto le ossa con quel poco che ci può rimanere intorno dopo che sono spolpate, e la pentola di Papin, portando la temperatura a 120 gradi, permetteva di mangiare, consumare queste ossa nonché il loro brodo, e noi oggi abbiamo questa pentola nelle nostre cucine, naturalmente invece per fare più in fretta. Farei anche notare una cosa curiosa, che sì, questa pentola sfrutta l'aumento di pressione che avviene dentro la pentola stessa. Il frigorifero, che non ha a che vedere con il calore ma semmai con il freddo, sfrutta però lo stesso principio, perché ha dentro una pompa che, facendo espandere un gas, si raffredda. Allora il principio è: se il gas si espande abbiamo il freddo, il frigorifero; se il gas si comprime abbiamo il caldo, la pentola di Papin. Dietro la fisica è la stessa. Oh, passiamo al bagno? Sì, passiamo al bagno, ma qui vorrei partire da una macchina molto semplice che non sembra una macchina, ed è il detersivo, ed è il sapone, ed è la schiuma da bagno. Infatti lei lo chiama il regno dell'acqua e del sapone. Eh sì, perché come funzionano questi detersivi? Hanno delle molecole che da un lato sono idrofile e dall'altro invece si attaccano molto volentieri ai grassi. Lo sporco è identificabile in buona parte con il grasso, con i lipidi, se vogliamo usare una parola più scientifica. Sì. Ed ecco che queste molecole di detersivo quindi asportano dalla nostra pelle questo grasso a cui in genere si attacca anche la polvere e così via, e proprio perché l'altro lato della molecola invece è idrofilo, cioè amante dell'acqua, e quindi si attacca all'acqua che noi usiamo per sciacquare. Ecco che il sapone è in sostanza un insieme di moltissime, di miliardi di molecole che però sono a loro volta delle micromacchine in qualche maniera. E poi, vabbè, in bagno abbiamo tante cose. Io leggendo il libro ho pensato a due cose, due invenzioni semplici ma assolutamente fondamentali. Il primo, lo sciacquone, e poi, invenzione ben più antica, la carta igienica. Sì, queste sono due cose che veramente hanno fatto la civiltà, eppure sono delle cose molto recenti. Rimanendo ancora un attimo tra le curiosità del bagno, molti di noi ovviamente tengono in bagno dei cosmetici, penso che le signore tengano dei cosmetici in qualcuno bagno. Uno di questi è il rossetto. Bene, ci sono dei rossetti che sono chiamati tissotropici. Questo vuol dire che sono allo stato solido, ma poi quando li si agita un po', li si muove o li si comprime contro le labbra, la loro sostanza diventa morbida e si spalma. Questa natura tissotropica è effettivamente una natura della materia che è stata esplorata recentemente. Tra l'altro sono coinvolti in questi studi della materia cosiddetta molle dei premi Nobel. E per dare un'idea di che cos'è questo effetto tissotropico, è lo stesso che permette al sangue di San Gennaro di fondere, di sciogliersi quando viene agitato il contenitore durante quei famosi rituali partenopei. Lo stesso principio regola il rossetto e il sangue di San Gennaro? Proprio questa così. Una scoperta fenomenale. E senta, se ci spostiamo in salotto, qui ci sbizzarriamo. Allora abbiamo stereo, lettori CD, DVD, MP3, il regno della musica, della TV. Sì, qui il nume tutelare dovrebbe essere Albert Einstein, che nel 1905 scrive quel famoso saggio sull'effetto fotoelettrico, che interpreta la luce come un flusso di particelle chiamate poi da lui stesso fotoni. Questo saggio di Einstein 1905 fu poi quello che gli diede il premio Nobel nel 1921, non la relatività, perché all'epoca la relatività era considerata troppo ardita e non ancora dimostrata. Bene, questi fotoni sono quelli che all'interno di un'altra macchina inventata negli anni 50, perfezionata negli anni 60, il laser, sono quei fotoni ben coordinati tra di loro, tutti della stessa frequenza ed energia, che vanno a leggere la musica dai CD oppure i film dai DVD. Pensate che ogni secondo di musica è rappresentato da 44.100 campioni di musica trasformati in numeri, ed è quel raggio laser che li va a leggere, e poi un computer naturalmente che ricompone questi numeri trasformandoli di nuovo in musica. Il salotto quindi è un luogo che per noi è molto gradevole e piacevole, proprio perché il nostro Einstein e poi tanti altri che hanno lavorato sul laser e così via, una ventina di premi Nobel sono stati dati per il laser, per i vari perfezionamenti, sì, eccetera, eccetera. Ecco perché questi signori sono delle ombre che aleggiano nel nostro salotto. Come faremo senza? Ecco, il tempo stringe, io vorrei subito andare in camera da letto virtualmente. Il regno del riposo, giusto Bianucci? Un riposo interrotto, lei scrive, da un trillo lancinante. Che invenzione la sveglia? Sì, un'invenzione che oggi è molto perfezionata, quella che ho io, ma penso molti di noi che hanno ormai, è una sveglia che è sintonizzata con una radio emittente, nel nostro caso qui in Italia una radio emittente che si trova in Germania, e ci dà un'ora con la precisione di un secondo di errore al massimo ogni 30.000 anni, perché prende i segnali da un orologio atomico. Ma io in camera da letto mi permetto anche una battuta, spero non troppo audace, e cioè che dormire è la prima cosa che noi normalmente pensiamo quando parliamo della camera da letto, ma non è la più piacevole. Non è solo la stanza del riposo, diciamo. Ce n'è un'altra ancora più piacevole che dormire. E lì sono delle piccole invenzioni che collaborano a questa seconda cosa piacevole. Ah, qui io lo dico, lei si spinge anche un po' sull'hard sul libro, eh? Sì, un pochettino, ma con cautela. No, semplicemente per ricordare che abbiamo degli abiti che hanno dei bottoni, questa è un'invenzione medievale, una volta c'erano tanti lacci e lacciuoli, i bottoni hanno già reso più facile togliersi gli abiti e toglierseli con grazia, naturalmente, come in certe occasioni è opportuno fare. E poi sono arrivate però anche i bottoni a pressione, detti anche poussoir, dalla parola francese, perché è un'invenzione francese, le zip o cerniere lampo, La cosa più interessante e curiosa è che c'è anche adesso come chiusura degli abiti il velcro. Il velcro è stato inventato da un ingegnere svizzero che notava sempre quando andava a passeggiare nei campi che si attaccavano ai suoi pantaloni dei frutti di un'erbaccia che si chiama bandana. Questi frutti di bandana li guardò al microscopio, vide che avevano degli uncini che si attaccano alla lana e ha inventato il velcro. Il velcro è stato applicato per la prima volta nello spazio, perché per gli astronauti era molto più semplice costruire, avere delle tute che si potevano aprire a strappo, e poi naturalmente questo strappo però può entrare anche in un rituale sexy, forse anche lo striptease della volta al velcro. Ecco, lei in questo capitolo in realtà si addentra anche in storie di reggiseni e reggicalze, ma ora non abbiamo tempo per approfondire, quindi io invito tutti a leggere il libro Le macchine invisibili di Piero Bianucci, edito da Longanesi, e la ringrazio. Grazie a lei, buona serata. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Poco fa vi ho preannunciato un collegamento con Ecopolis, è questa manifestazione che c'è a Roma, dove si trova Barbara Gallavotti. Ciao Barbara. Ciao Federico. Allora, Ecopolis perché questa 3 giorni di convegni, ma anche ci sono degli showroom con prodotti che riguardano ricerche e tecnologie che mettono insieme interventi ambientali ma nelle polis, cioè nelle grandi metropoli. Comunque tu hai un tema specifico fra i tanti che si stanno trattando lì, di che si tratta? Si tratta di come nelle nostre città, che sono ricche di manufatti umani, gli organismi naturali, piccoli organismi ma anche organismi più grandi come le piante, interagiscono con quello che noi abbiamo costruito ed eventualmente lo danneggiano. Mm-hmm. E in particolare ne ha parlato la dottoressa Bonapiera Griselli dell'ARPA Piemonte. Che è lì con te. Buonasera Bonapiera Griselli. Buonasera. Lei ha presentato un vero e proprio zoo di organismi che colonizzano i manufatti umani. Ce lo può riassumere? Senz'altro. Allora, io ho fatto una brevissima carrellata su quelli che sono i microrganismi e gli organismi responsabili del fenomeno del biodeterioramento, focalizzando l'attenzione sul biodeterioramento outdoor, perché affronta delle tematiche di maggior pertinenza con gli ambiti di studio delle agenzie per l'ambiente. Ho sottolineato il fatto che la conoscenza della biologia vegetale è fondamentale, perché un ruolo preponderante nelle cause di degrado è assunto dagli organismi autotrofi, cioè quelli che sono in grado di sintetizzare autonomamente sostanza organica. Possiamo ricordare dei batteri autotrofi, alghe, cianobatteri, piante superiore, ma anche organismi eterotrofi, cioè quelli che hanno bisogno per vivere di sostanza organica proveniente dall'esterno, come funghi, altri batteri eterotrofi. E quindi tutta una varietà di mondo estremamente vasta. Non ho ancora citato il mondo animale, in quanto in ambiente esterno, outdoor, ha forse un ruolo meno importante, però ricordo ancora i molluschi per quanto riguarda il deterioramento dei manufatti sommersi. Si possono ricordare aracnidi, in particolare insetti, ma questi hanno un ruolo più preponderante in ambienti confinati, e ancora gli uccelli, soprattutto per le deiezioni. Per gli uccelli sappiamo tutti che tipo di danni, per esempio, possono fare i monumenti storici, ma tutta quell'altra categoria, insomma, di esseri viventi, che tipo di danni possono arrivare? Allora, i danni sono duplici, sono sia fisici che di tipo chimico. I danni fisici comportano appunto la penetrazione all'interno di quello che è il substrato, penetrazione che può essere più o meno aggressiva in funzione di quella che è la grandezza e la tipologia di organismo. Certo. È chiaro che se andiamo a considerare le piante superiori abbiamo degli effetti meccanici preponderanti su quelli chimici, mm-hmm. perché le radici ovviamente si possono espandere anche a diversi metri dalla base di impianto. Se invece andiamo a considerare degli organismi di dimensioni minori, come possono essere i licheni, i muschi oppure addirittura alghe e batteri, il tipo di penetrazione fisica è di minore entità, però comunque il degrado c'è e causa proprio delle alterazioni del substrato. A questo danno di tipo fisico si somma un danno di tipo chimico dovuto a tutta una serie di sostanze che vengono prodotte dai vari organismi e che modificano profondamente il substrato, modificandone proprio la struttura, la composizione e degradandolo. Indipendentemente dall'area geografica in cui è collocato un manufatto, è molto importante tenere presente la collocazione proprio di un'opera, nel senso che ad esempio l'ambiente urbano ha delle caratteristiche, peculiarità tutte sue che lo differenziano ad esempio dall'ambiente rurale. Grazie dottoressa Bonapiera Griselli, buonasera. Buonasera, grazie. Barbara, resto con te perché ci sono altre cose lì a Ecopolis, un paio interessanti che hai visto. Ho visto un paio di altre cose decisamente divertenti. Intanto sicuramente il premio alla simpatia va alla Ricicletta, che è una bicicletta che è stata esposta nell'area di Reloader. Reloader, che vuol dire Reverse Logistics and Development of Environment Research, ed è un'associazione che vede unite fra l'altro anche università e centri di ricerca, associazioni di categoria, e il loro scopo è l'applicazione di direttive comunitarie in materia di recupero e di riciclo. La Ricicletta è una bicicletta fatta interamente con alluminio riciclato e presentata dal consorzio imballaggi di alluminio, e pensa che negli anni 50 e 60 c'erano mediamente 40 kg di alluminio per ogni automobile, adesso siamo arrivati a 70 kg, probabilmente si sta ancora crescendo, quindi è molto importante recuperarlo, anche perché l'alluminio è un materiale interamente riciclabile, e per fare una bicicletta ci vogliono 800 lattine di alluminio riciclate. La bicicletta è veramente molto carina. E poi un'altra cosa interessante, chi ci ascolta da Napoli non ne sarà sorpreso, è stato presentato un oggetto che è sostanzialmente un apparecchio per il riciclo dei rifiuti. Funziona così: si inserisce nella sua apposita bocca una bottiglia di plastica, una lattina, qualcosa che vogliamo riciclare, l'apparecchio la comprime, quindi fa in modo che occupi pochissimo volume, e restituisce all'utente una ricevuta. Quando l'utente ha un sufficiente numero di ricevute, grazie a un accordo con una compagnia telefonica, può ottenere delle telefonate gratuite. Bottiglie in cambio di telefonate. Esatto. Grazie Barbara da Ecopolis. Buona serata, ciao. Buonasera. Perché gli scienziati non sono pericolosi non è una domanda, è il titolo di un libro, e il titolo sta stampato su una bella copertina forte rossa di questo libro appena uscito per Edizioni Longanesi, e l'autore Gilberto Corbellini è qui con noi questa sera. Buonasera Corbellini. Buonasera. Allora, lei è ordinario di storia della medicina e docente di bioetica alla Sapienza di Roma, però direi anche, per presentarla rapidamente, che la bioetica, in particolare in generale i rapporti fra scienza, media, pensiero politico, opinione pubblica, e questo è un territorio nel quale lei è impegnato da diversi anni, anche con numerosi libri. Allora partiamo dal titolo, Corbellini, perché gli scienziati non sono pericolosi. So che questo, che è appunto la tesi iniziale del testo, però non significa che lei vuole dirci che gli scienziati sono una specie eletta della quale bisogna sempre fidarsi. No, assolutamente. Io sostengo infatti che gli scienziati non sono pericolosi in quanto scienziati, e che il fatto di praticare la ricerca scientifica, di far riferimento a dei sistemi di conoscenza che sono più controllati di altri, fanno sì che proprio per questo gli scienziati poi siano un po' meno pericolosi, o quantomeno il tipo di attività che fanno sia stata maggiormente passata al vaglio, come si dice in genere, dei loro pari, e che quindi anche il loro impegno nel come dire, nel presentare i loro risultati, nell'informare sul tipo di cose che fanno, dia maggiori garanzie che non rispetto ad altre attività. Poi ovviamente gli scienziati sono uomini come gli altri, sono cittadini come gli altri, e quindi in alcuni contesti, e io lo dimostro nel libro, contesti nei quali per esempio la politica interferisce pesantemente con la scienza, beh, allora possono diventare pericolosi anche loro. Però lei con questa tesi, con questo titolo, sostiene anche che c'è stato, che c'è uno sbilanciamento dell'altra parte, cioè vengono considerati molto più pericolosi di altre categorie, di altre culture e professioni, no? Beh sì, ultimamente, soprattutto in Italia, ci sono diversi intellettuali che scrivono che effettivamente gli scienziati e la comunità scientifica rappresentano in questo momento una minaccia per l'uomo e per la democrazia. Papa Ratzinger recentemente ha addirittura detto che la loro hubris mette a rischio la dignità umana in generale. Quindi c'è in questo momento un clima che è un po' paradossale a mio parere, nel senso che si può dimostrare, io cerco di dimostrarlo, che le origini di certi modi di convivenza civile, che sono poi quelli che noi chiamiamo democrazia, sono stati sperimentati per la prima volta dalle accademie scientifiche del 600, e che alcuni modi di discutere, di dibattere sui problemi si sono dimostrati più efficaci, più sicuri, basati sulla tolleranza, e sono stati accettati proprio per questo molto prima che i valori della tolleranza e del rispetto dei fatti diventassero anche un fondamento delle moderne democrazie. Però Corbellini, le chiedo questo: nel suo libro, che affronta in particolare, ed è giusto farlo io credo, tutto quel grande territorio nel quale troviamo la biologia, la medicina e tutto il grande dibattito, il boato insomma mediatico e politico di questi anni, a questo proposito segnalo che nel libro ci sono pagine molto interessanti che ricostruiscono lo scenario di vicende come il famoso caso di Bella. Ecco, le dicevo però, Corbellini, lei di fatto afferma che la distanza fra quello che dovrebbe essere un livello minimo di conoscenza scientifica da parte del largo pubblico e la realtà, a livello indispensabile per comprendere e anche discutere correttamente questi argomenti, e questa distanza è enorme, cioè il suo è un messaggio effettivamente pessimistico. Sì, guardi, il problema secondo me non sta nei termini del pessimismo, questa distanza c'è sempre stata, e probabilmente un secolo e mezzo fa la distanza era anche maggiore, perché il livello di alfabetizzazione diffuso nella società era probabilmente inferiore. Secondo me il problema della distanza nasce da due fatti. Uno, che c'è stato uno scarso adeguamento dei livelli di istruzione e delle basi educative che sono diventate oggi necessarie per affrontare e capire di certi problemi. Questo un po' in tutto il mondo occidentale, ma in modo particolarmente grave in alcuni paesi, tra cui l'Italia. L'altro problema serio, e forse più di quello diciamo che denunciavo adesso, è il problema della fiducia. Ora, tutte le relazioni umane hanno una dimensione di fiducia che è inevitabile, cioè da cui non si può prescindere, e la riduzione, diciamo il crollo della fiducia nello scienziato e nella scienza è una caratteristica davvero peculiare del nostro tempo, e questo non c'è mai stato, a fronte del fatto tra l'altro che le modalità di controllo di quello che avviene nei laboratori, di quello che gli scienziati fanno, è aumentato anche molto, ma enormemente, molto di più rispetto al passato. Grazie Corbellini, ricordo il titolo, Perché gli scienziati non sono pericolosi, edizione Longanesi. Arrivederci Corbellini. Arrivederci, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La soluzione del quiz, vi ricordo la domanda, due specchi uno di fronte all'altro, voi vi mettete in mezzo, si hanno tante riflessioni, potreste vederle all'infinito. In un certo senso il quiz di oggi era un po' truccato perché tutte e tre le risposte contenevano un pezzetto di verità. Ogni riflessione dà un'immagine più piccola, questo è vero, e quindi ad un certo punto ci sarà una riflessione più piccola della vostra testa, come potreste vederla quindi. Ed è anche vero che l'angolazione, seppur minima, fra i due specchi fa sì che le riflessioni escano dalla loro cornice. Però, prima di tutto, prima che possa scattare uno dei due effetti che ho appena descritto, c'è l'energia che se ne va. Ci sono conti precisi. Se avete uno specchio di eccezionale perfezione che può arrivare a riflettere il 99% della luce che lo colpisce, dopo 70 riflessioni l'energia è già scesa del 50%. Dopo 140 riflessioni siamo al 25%. Come vedete, il degrado è abbastanza rapido e stiamo parlando di ultraspecchi, quelli costosissimi usati dagli astronomi. Con due specchi normali, dopo un centinaio di riflessioni, credo che le cose siano già messe molto male. Dunque, Maurizio Menis, i carciofi che hanno le spine potremmo mettere al primo piano, così facciamo meno strada. I pomodori possono andare al dodicesimo. Perché no? Perché ha bisogno molto sole i pomodori. Vertical farm, le fattorie in verticale, stai per parlarci di questo? Sì, Federico, perché sembra che stia per arrivare sul tavolo della Moratti sindaco di Milano, un progetto ideato e proposto dall'Enea, che però ha trovato subito la collaborazione sia di Agrimercati che dell'assessorato alla salute di Milano, tanto che sia la dottoressa Magro, che è vice direttore generale di Agrimercati, sia l'assessore alla salute di Milano Landi Chiavenna sono impegnati in prima persona. Insomma, l'idea è di costruire in occasione dell'Expo 2015 una di queste strutture. Sarebbe la prima al mondo. Lasciami dire brevemente che cos'è. Così numeri. Insomma, è una specie di grande serra, alta però invece che qualche metro o 100 metri, cioè la verdura viene in questo caso coltivata in verticale. Ti dico tre numeri: 30 piani per un equivalente di 10 ettari, un edificio di circa 100-120 metri, una capacità di produrre 3.600 tonnellate all'anno di verdura e di nutrire di conseguenza circa 25.000 persone al giorno. 24.660 persone servite al giorno. Sono numeri interessanti. Chi hai intervistato? Ho intervistato Mauro Basili, responsabile dell'unità di presidenza dell'Enea, che sta seguendo direttamente il progetto, e insomma gli ho chiesto di spiegarci quello che in fondo è il motto che loro hanno scelto per promuovere questa struttura. La logica dei 5 zeri. Sentiamo un po' quali cosa sono. Ci dice? Il primo zero è l'emblema della sostenibilità ed è quello connesso con il fatto che questa infrastruttura che noi abbiamo chiamato Skyland non produrrà alcuna emissione, quindi non ci sarà alcuna emissione in aria e non ci sarà alcuna emissione, chiamiamola così, nei corpi idrici. Il secondo zero è anch'esso estremamente importante dal punto di vista ambientale, che è zero waste. Nel senso che Skyland è in grado di produrre beni alimentari senza comportare produzione di rifiuti, in quanto i rifiuti verranno riutilizzati al massimo e ovviamente soprattutto minimizzati. Quando parliamo di rifiuti, perché qui rifiuti diventa un termine, e questo è un punto positivo in realtà di questo progetto, ambiguo, perché ci sono indubbiamente tutti i rifiuti che non vengono prodotti, quelli legati all'imballaggio, al trasporto dei prodotti che poi, ricordiamolo, in questa torre vengono venduti sostanzialmente al piano terra. Poi ci sono i rifiuti di produzione invece. Esatto, i rifiuti di produzione, poi ci sono anche i rifiuti connessi ad un'attività economica, di cui poi parleremo, collaterale all'infrastruttura stessa. Il terzo zero sì. È uno zero molto caro agli urbanisti, che è il concetto di zero distance. Nel nostro caso zero distance vuol dire che cerchiamo di realizzare una filiera ridottissima dal produttore al consumatore di beni alimentari vegetali. Quindi zero distance vuol dire che io trovo un luogo dove produrre questi beni in città e lì il cittadino può legarsi a consumarli. E lì li distribuisco. L'altro zero, il quarto, è zero power. è quello che le dico francamente, al quale siamo francamente più affezionati, essendo sì, l'Enea certo, un ente che si occupa di energia, di ambiente, di nuove tecnologie. Zero Power in qualche modo raccorda e mette insieme tutte le nostre ricerche convergenti verso la realizzazione di un'infrastruttura che è assolutamente autosufficiente per quanto riguarda il suo fabbisogno energetico. In questo caso il fabbisogno energetico è prodotto a partire dalle tecnologie fotovoltaiche, dal riutilizzo di quei rifiuti di cui parlavamo e quindi anche dal riutilizzo delle biomasse che verrebbero prodotte nello Skyland, e poi dall'approvvigionamento, chiamiamolo così, geotermico dell'energia a partire dal sottosuolo milanese. Stiamo parlando quindi di una pompa di calore, esatto, che sarà però di notevole dimensione. Esatto. Insomma, la pompa di calore a cui noi stiamo pensando è sicuramente la pompa di calore più grande realizzata in Europa. L'ultimo zero, Zero Pesticides, ed è emblematico perché tutto questo accade a Milano. La novità sta nel fatto che noi vogliamo realizzare un sistema produttivo di beni alimentari e vegetali in una logica di sistema chiuso, garantito e certificato. Allora, la proposta. Le chiedo subito: si tratta di coltivazione biologica nel momento in cui si dice zero pesticidi? No, diciamolo per chiarire. Sì, assolutamente biologico. Allora, che cosa intendiamo fare? Sappiamo ovviamente che a Milano ci sarà Expo 2015, sappiamo che quel momento Milano sarà il punto centrale di tutta una serie di problematiche che hanno valore mondiale. Ci sembra opportuno che in questo discorso ci sia anche un elemento relativo alla problematica sulla qualità e sanità dei prodotti alimentari. Le chiedo solo un'ultima cosa. Da un punto di vista, come dire, dell'impatto di quello che vedranno i cittadini aprendo le finestre, immagino che vi siate preoccupati di questo aspetto, visto che è un tema che poi in Italia tendenzialmente produce sempre dibattiti feroci. Ma guardi, per nostra fortuna in Enea abbiamo un piccolo pool di architetti piuttosto agguerriti che stanno affrontando proprio la problematica dell'inserimento delle tecnologie fotovoltaiche in città, che a questo punto dovranno immaginare questo inserimento nel modo più felice e più creativo possibile. 30 piani di agricoltura in città, mi sembra una roba interessante. Eh sì, ma devo dire, io però sto conducendo un mio piccolo sondaggio. Devo dire che invece la reazione iniziale non sempre è di grande fascinazione, di grande interesse. C'è stupore, ma c'è anche un po' di scetticismo. In effetti l'idea di coltivare verdura in centro città in modo massivo, addirittura effettivamente fa un po' a pugni con... Eh sì, fa un po' pugni con il senso comune. In realtà, ecco, dà un po' la sensazione di rischiare e trasformarsi in uno di quei bellissimi, no, famosi castelli in aria. In realtà si tratta di un progetto estremamente serio che nasce più di 10 anni fa alla Columbia University, che ha ricevuto moltissimi contributi negli anni, e nasce da un'idea di Dixon Despommier, che fu la persona che si occupò a suo tempo del progetto Tetti Verdi a Manhattan, e quindi è un progetto che affonda le sue radici culturali proprio nella cultura della riduzione dell'impronta ecologica, e quindi un modo non per produrre più rifiuti, per produrre mostruosità, ma anzi per ridurre l'impatto umano e soprattutto in questo caso delle città sull'ambiente. Insomma, è un progetto che ha dietro una storia scientifica robusta, vuoi dire. Ecco, e invece però la sensazione di prima chita è questa, quindi noi speriamo che quando questo progetto arriverà all'attenzione del pubblico ci sia una riflessione e non si reagisca solo con lo stomaco, perché in effetti in questo caso lo stomaco può proprio sviare. Grazie, ciao. Ciao. Cosa mangiano le scimmie, soprattutto le grandi scimmie, gorilla, oranghi, scimpanzé, bonomo? La domanda può forse sembrarvi priva di senso, lo sapremo, no? Direte, cosa mangiano? Da anni osserviamo questi animali, li studiamo anche con tecnologie molto avanzate, li filmiamo per bellissimi documentari televisivi. Invece non è così semplice. Poi si vuole rispondere a questa domanda con una certa profondità. Possiamo riformularla in questo modo, ad esempio, cosa possono mangiare le scimmie? Non è la stessa cosa. Pensate a una trentina di anni fa in Italia, pensate a noi, che espressioni apparivano sui nostri volti quando si parlava di quei giapponesi che mangiano pesce crudo. Bene, oggi ci sono quelli con i motorini che portano a casa il sushi, e in ogni città c'è almeno un ristorante giapponese, quando non ve ne sono 40. Gli animali, e noi lo siamo, si abituano anche a mangiare altro da quello che hanno sempre mangiato. I bonobo sono vegetariani, però in qualche osservazione sul campo li hanno osservati mentre cacciavano piccoli animali. Rare osservazioni però ci sono state. Gli scimpanzé vanno a caccia in gruppo e sono anche alquanto aggressivi, ma c'è il fondato sospetto che dove li si osserva impegnati in questo comportamento vi sia una causa umana, cioè la presenza di una pressione dell'habitat umano che ha ristretto notevolmente quello degli scimpanzé e ha innescato delle pratiche che prima non si manifestavano. I gorilla invece sono riconosciuti universalmente come vegetariani. Sono le scimmie più grandi, i maschi arrivano a 250 kg, ma con gesti lenti e aggraziati loro staccano foglie dai cespugli delle foreste e se le mangiano. O no? Siamo sicuri? Steve Ross, primatologo al Lincoln Zoo di Chicago, si è posto questo interrogativo, fra l'altro non solo sui gorilla, e ha messo in piedi una singolare inchiesta, chiamando la collaborazione di una settantina di colleghi operativi in altri zoo degli Stati Uniti. Ha chiesto loro: avete notato dei comportamenti alimentari anomali rispetto alle conoscenze consolidate, anomali nelle vostre scimmie? Stiamo parlando di zoo molto grandi, quelli nei quali agli animali sono riservate aree ampie, quindi ecco che gli uccelli, passeri, merli entrano in queste zone, ma vi possono passare anche talpe o topolini vari. Che risposte ha ottenuto Steve Ross dai suoi colleghi? In quasi tutti gli zoo sono stati osservati casi di aggressione e uccisione di alcuni di questi animali. I bonobo si sono in particolare distinti in queste pratiche e con grande sorpresa si sono segnalati anche casi di gorilla che hanno ucciso degli uccellini e un esemplare se n'è pure mangiato uno. Ovviamente i ricercatori tengono conto del fatto che gli animali in cattività possano assumere comportamenti deviati, ma questa differenza non deve essere stressata oltre misura, perché per molti altri comportamenti si è più volte registrata una identità fra vita in natura e vita negli zoo. E l'osservazione di animali come gorilla e bonobo nella foresta non è affatto semplice se si vogliono analizzare comportamenti alimentari molto rari, ma che ci sono. Möbius termina qui per questa settimana. Vi ricordo due cose in conclusione. A proposito delle vertical farm, delle quali abbiamo parlato poco fa, sul nostro sito troverete vari approfondimenti. Sempre sul nostro sito abbiamo aperto una sezione dedicata a idee per le tesine della maturità, ovvero a partire da contenuti scientifici. L'indirizzo del nostro sito www.moebiusonline.eu. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.